accaduto che ha nevicato durante l'Epifania, diciamo una nevicata molto limitata, e sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia, proprio pagina Facebook Bologna, Fratelli d'Italia Bologna, è comparso un'immagine con una strada, peraltro non ben identificata, della città, con molta neve e macchine allo sbando di traverso che occupano la carreggiata, ovviamente nessun segno di intervento da parte degli spazzaneve, insomma dell'amministrazione. Un'immagine falsa, un'immagine prodotta con l'intelligenza artificiale. Non solo l'immagine è falsa, ma è falsa anche la nevicata, perché la nevicata che c'è stata è stata sicuramente di dimensioni inferiori, e essendo stato sparso il sale prima, e come siamo stati informati tutti sul canale Telegram del comune e sulla stampa, e con gli spazzanevi in azione, non ha prodotto particolari disagi alla circolazione. La verità è che quell'immagine era falsa, e quell'immagine ha procurato una falsa emergenza, un procurato allarme, come c'è scritto chiaramente sul codice penale. Peraltro è un'azione perseguibile penalmente, perché ha procurato un allarme falso. Sappiamo che questi sono i sistemi con cui si muovono i MAGA, e con cui si muovono i maghetti nostri locali, evidentemente. Sul post sono più o meno 200 like, ma almeno il doppio di interazioni, di commenti che raccontano che invece la realtà è stata tutt'altra, che contestano e commentano, alcuni anche in maniera molto greve, il post stesso. E la cosa interessante è che appunto in questo caso, anche data la grossolanità dell'immagine insomma prodotta, è il fatto che se ne sono accorti i cittadini, che in realtà hanno avuto un'esperienza di tipo diverso, perché certamente appunto gli spazzanevi sono entrati in azione fin dalle prime ore, quando tra l'altro non c'era neanche tanta neve depositata. Però insomma il tentativo è stato quello di creare malcontento nei confronti dell'amministrazione comunale? È stata quella di sovvertire la realtà, cioè di dare un'immagine della realtà che non esiste. D'altra parte ci ricordiamo, credo tutti, quell'immagine, forse una delle più iconiche, una delle prime, dei trattori e delle montagne di fieno sotto la Torre Eiffel. Mi sembra che fosse l'inizio del 2024, in seguito alle dimostrazioni, alle proteste degli agricoltori francesi. Immagini che adesso ci sembrano palesemente, insomma, sono anche un po' ridicole se le vediamo, ma che nel frattempo, in 2 anni, si sono evolute enormemente, per cui è molto difficile riconoscerle. Ma spesso io, quando vedo qualcosa, mi interrogo, cioè mi chiedo: ma questa immagine è vera o è prodotta con l'intelligenza artificiale? Cioè, un'operazione che credo tutti e tutte dovremmo fare sempre, e non tutti abbiamo e hanno gli strumenti per farlo. E cioè il 25% dei bolognesi, ma ormai degli italiani, ha più di 65 anni, e molte di queste persone stanno molto sui social e non hanno gli strumenti, non hanno la consapevolezza, per cui possono essere facilmente influenzati e influenzate da queste immagini. Viene attribuita a Goebbels quella famosa frase: ripeti una cosa falsa 1000 volte o 100 volte diventa una verità. Viene attribuita, sappiamo che non l'ha detta lui, ma un'immagine ancora ci mette ancora meno, cioè devi vederla ancora meno volte perché diventi una realtà. Sappiamo, viviamo in un mondo che è pieno di immagini, nel quale insomma molte cose vengono veicolate attraverso le immagini, per cui facciamo fatica, questo è il punto. È difficilissimo, a meno che non venga lasciata la scritta, e quindi dovrebbe essere anche un giochino, dovrebbe essere una cosa palese e quindi anche un po' divertente. Credo che sia molto difficile orientarsi per molte persone in questo mondo e capire quello che è vero e quello che invece è falso. Sì, e se parliamo di democrazia, questo è potenzialmente pericoloso, perché ovviamente base, no, a come vediamo il mondo, poi possiamo anche esprimere un voto, partecipare. Orienta e influenza al voto, sicuramente. Queste cose sono sicura che si intensificheranno. Per quanto per molti cadano nel vuoto e siano ridicole, per molti altri invece no, sono la realtà. La capacità per le persone di orientarsi nella realtà adesso, temo, per in certi settori della popolazione, anche quelle, come dicevo, meno preparate e più grandi, è difficile. Quindi il voto può essere sicuramente influenzato. Sicuramente ne vedremo delle belle quest'anno, avvicinandoci al prossimo anno alle elezioni sia nazionali che locali, amministrative, e quindi quello che io chiedo e dico è: stare molto in guardia e chiedersi sempre se le immagini che vediamo, soprattutto quelle che sono più impattanti a livello politico, se sono immagini vere o se sono invece generate con l'intelligenza artificiale o comunque artefatte in qualche maniera.